in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che, come potete immaginare, aprono tutti sulla vicenda di Roma, della giunta Raggi che ha perso un pezzo per un arresto e poi ieri due pezzi per dimissioni decise dopo un lungo vertice del Movimento 5 Stelle. Boccata di ossigeno perché il Sole 24 Ore non apre sulla vicenda Raggi, che però naturalmente ha spazio sulla prima pagina con anche alcuni commenti, apre invece su Monte dei Paschi. Corsa contro il tempo per l'aumento da 5 miliardi. Ci sono infatti 3 giorni per la conversione dei bond in azioni, alla quale ricorderete la Consob ha dato il via libera, quindi giovedì prossimo si chiude la ricapitalizzazione. C'è un decreto pronto con interventi per un piano banche messo a punto. Moltissimi i commenti, vi segnalo in particolare a pagina 3 Vito Lops, che ricorda tutto quello che bisogna sapere per questa conversione appunto dei bond in azioni, cioè chi possiede i bond può diventare azionario della DMPS. In prima pagina anche la vicenda Mediaset, subito sotto MPS, con Bollo Re non si tratta. Questa è la dichiarazione ribadita, se vogliamo, ieri da Fedele Confalonieri, che è il presidente di Mediaset, e ha ripetuto appunto che si tratta di quella di Vincent Bolloré con la sua Vivendi di una scalata ostile, cioè una scalata che il CDA e in particolare l'azionista di maggioranza che è Fininvest con circa il 40% non vuole. Antonella Orivieri ci ricapitola un po' questa intricata vicenda finanziaria che si lega, lo sappiamo, anche alla partecipazione di controllo che ha Bolloré in Telecom, nonché la sua presenza in assicurazione generali. Il titolo dell'articolo di Antonella Olivieri, che poi trovate a pagina 5, è Il gioco dell'OPA. Molto importante anche questa iniziativa di Confindustria per il terremoto. Del terremoto riflettevo stamattina, praticamente non si parla più, ma naturalmente non perché la ricostruzione sia completata, anzi forse col freddo che aumenta le difficoltà sono sempre maggiori, però ripeto, a parte chi lo segue come il Sole 24 Ore, anche per vedere che cosa, come sta maturando l'iter delle leggi e lo stanziamento dei fondi che deve servire per l'emergenza e per la ricostruzione, io l'ho visto abbastanza sparire questo argomento dai giornali. Ecco, ieri è stata lanciata questa iniziativa di Confindustria di un fondo di solidarietà. Trovate tutto a pagina 11, con anche un'intervista al commissario Errani, che sapete il commissario ex presidente della regione Emilia-Romagna, adesso scelto come commissario per la ricostruzione, che a Massimo Frontera, sempre a pagina 11, ha raccontato come bisogna anche dare priorità alla ricostruzione delle imprese distrutte, perché poi dal lavoro riprende anche la vita quotidiana, può esserci un effetto virtuoso se appunto riparte anche il lavoro e l'economia delle parti del centro Italia colpite dal terremoto. Corriere della Sera, come vi dicevo, via i fedelissimi, punto, e Grilli salva Raggi. In prima pagina anche la vicenda Mediaset, l'ira di Mediaset, con Vivendi non trattiamo. E poi vi segnalo la fotonotizia che riguarda lo sport, per fortuna uguale spazio al calcio, con la vittoria della Juventus, che appunto a questo punto è 7 punti, lo sapete, sulla Roma, quindi inizia insomma una seria ipoteca sullo scudetto. E dall'altra parte però Sofia Goggia, questa sciatrice di cui poco sapevamo tutto sommato a inizio di questa stagione, infatti Flavio Vanetti poi a pagina 42 la definisce il volto nuovo dello sci, perché ieri è arrivata terza nella discesa libera di Val d'Isère, ma è il suo ennesimo podio in questa stagione. La Repubblica, Raggi si piega, 2 punti, via il suo vice. La fotonotizia questa volta è solo per la Juventus, Higuain, una fuga a scudetto firmata Higuain. Il commento principale alla vicenda Raggi è del direttore di Repubblica Mario Calabresi, chi non ha voluto vedere. Il Messaggero, Raggi si salva ma perde pezzi. Il riferimento è al vice sindaco Frongia, che lascia il suo incarico di vice sindaco ma resta al comune, e c'è un po' una cronaca faticosa perché c'è stato cronaca del vertice del Movimento 5 Stelle, dico faticosa perché le dichiarazioni alla fine sono state molto stringate, sappiamo solo che è durato parecchie ore, 5, ma non sappiamo esattamente che cosa si siano detti in questo vertice. Un aggiornamento sulla tristissima vicenda della giovane studentessa che aveva scelto Roma per la sua formazione, sognava di diventare stilista o comunque di lavorare nel mondo della moda, e sapete, è stata scippata mentre rincorreva i suoi scippatori, e poi è stata travolta dal treno. Adesso il Messaggero, che è il quotidiano che più nel dettaglio entra sugli aggiornamenti dell'indagine sulla morte di questa studentessa cinese, racconta che un testimone ha detto che questa ragazza cinese è stata ferita dal treno, è stata investita dal treno in corsa, in realtà era solo ferita, non era stata uccisa, e però gli aggressori hanno visto la scena e hanno nascosto il corpo, che poi, come sapete, è stato trovato 4 giorni dopo. L'Avvenire, altra boccata d'ossigeno, perché non apre sulla vicenda Raggi, e dico questo non perché la vicenda non sia importante, naturalmente la crisi della giunta che deve governare la nostra capitale e che sappiamo è in una profonda crisi di gestione ma anche economica, con i due problemi più grossi che sono quello del trasporto pubblico e quello dello smaltimento dei rifiuti, e poi c'è appunto la mancanza di fondi. Poi naturalmente si possono elencare la manutenzione delle strade, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i problemi della sanità, però insomma grandissimi problemi. Non è certo una notizia di secondo piano che la giunta sia in crisi, dico boccata di ossigeno perché purtroppo, come dicevo prima, non sappiamo molto di quello che è stato detto nel vertice di crisi del Movimento 5 Stelle, quindi sappiamo anche molto poco di come si evolverà questa crisi, ce lo diranno appunto gli eventi di oggi, di domani, dei prossimi giorni, quindi questa che fanno i giornali sono, come vedremo anche su altri titoli ad effetto, molta cronaca, molti retroscena, ma di concreto, per avere appunto qualcosa di concreto, bisognerà aspettare i prossimi giorni. E l'Avvenire sceglie di aprire sulla guerra in Siria, l'agonia di Aleppo, perché nonostante sia effettivamente pare iniziato il vero sgombero delle persone rimaste assediate ad Aleppo, che è la seconda città della Siria, sono ancora 30.000 i civili intrappolati, e c'è stato un altro accordo che però l'Avvenire definisce fragile, e proseguono le accuse incrociate tra i diversi paesi che hanno appoggiato una parte o l'altra, e per esempio ieri secondo l'Iran il blocco è colpa di tutti, nessuno ha veramente collaborato perché ci fosse questo corridoio che rendesse possibile l'evacuazione di tutti i civili. La Stampa, resa di Raggi via i fedelissimi, così Grillo commissaria a Roma, ma la fotonotizia è di un reportage di Domenico Quiri dal Niger, dove nasce la Jihad, il deserto tra Tuareg e cercatori d'oro. Sapete che il Niger, anche la Nigeria, ma in questo caso appunto si parla di Niger, è uno dei serbatoi appunto dei jihadisti. Il Giornale, vi dicevo, titoli con toni diversi, questo ha toni molto forti. Il Giornale, Grillo vende la Raggi, il comico commissaria la sindaca, fa fuori Fronge Romeo, ipotesi di nuove elezioni a maggio. Intanto volano gli stracci nel movimento. Di Maio, Luigi Di Maio è quello più nel mirino, perché l'esponente, che tra l'altro è anche vicepresidente della Camera, l'esponente appunto dei 5 Stelle, era quello più vicino alla giunta Raggi. Libero, la Raggi si incolla alla poltrona. L'occhiello è: l'oca del Campidoglio starnazza ancora. La fotonotizia però è dedicata a Trump, perché oggi in edicola con Libero c'è un libro su di lui, Trump uno di noi. Secondo Ugo Bertone, con Trump l'Italia crescerà più della Germania. Vedremo. E poi l'editoriale, l'intervento domenicale su Libero di Gianluca Vacchi, che da qualche settimana appunto ogni domenica interviene con lunghissimi articoli su Libero che iniziano in prima pagina. Il titolo di quello di oggi, e poi trovate a pagina 8, pensavo di leggervene un pezzo, ma a questo punto anche no, è perché adesso poi c'è una pausa, comunque ve lo segnalo: la corruzione c'è, ma meno di quello che pensiamo nel nostro paese. No, questo Gianluca Vacchi lo scrive a poche ore dall'arresto di Marra. Comunque, secondo lui la correzione c'è, ma meno di quello che pensiamo. Ci fermiamo un attimo e poi vediamo le ultime pagine, le ultime prime pagine e quello che c'è all'interno dei, dei quotidiani di oggi. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancava quella dell'Unità che non titola su Virginia Raggi ma sull'Assemblea Nazionale del PD che si terrà oggi. Prima l'Italia, virgola, la ripartenza PD. Si aspetta a questa Assemblea Nazionale un intervento di Renzi un po' più lungo e articolato di quello che ha fatto, molto breve, diciamo senza diritto di replica, mentre oggi probabilmente ci sarà e come, il giorno dopo il referendum, cioè il lunedì 5 dicembre. In campo anche Rossi e Emiliano, spiega l'Unità. Il riferimento è al presidente della regione Emilia-Romagna, al presidente della regione Puglia, che potrebbero essere i candidati alla direzione. Però le primarie, il congresso, si prevede saranno in primavera, non subito. La vicenda Raggi ovviamente c'è, ma in prima pagina, ma con un titolo, non il titolo principale, scandalo Marra, Raggi si arrende. C'è in prima pagina un intervento di Valeria Fedeli che risponde a una lettera aperta che l'ha scritto Sergio Staino, direttore dell'Unità. La vicenda probabilmente l'avete sentita. Valeria Fedeli è il nuovo ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università. È stata al centro di molte polemiche perché nel suo curriculum ufficiale, che poi è stato cambiato, si scriveva che era laureata, quando in realtà i suoi corsi di studi post liceo erano all'epoca un diploma, adesso si chiamano laurea breve, da qui, ha spiegato lei, l'equivoco, la leggerezza. Poi però si è anche scoperto che di fatto lei non ha fatto una vera e propria maturità, ma appunto ha fatto un corso di studi secondari. E qui altra polemica. E allora Valeria Fedeli interviene direttamente e senza mezzi termini, senza se e senza ma, dice: di queste leggerezze, di questi errori mi scuso con tutte e tutti, soprattutto con coloro che fanno parte del mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Non sono ministra per insegnare loro qualcosa, né per convincerli delle mie idee, ma per ascoltarli, dialogare e fare sintesi. E conclude, e cercheremo di ricordarci queste sue parole: ho commesso un errore. Accetto per oggi la sfida e l'impegno che mi vengono richiesti. Chiedo solo di essere giudicata per il lavoro che farò nei prossimi mesi. La verità, la confessione di Equitalia, i veri evasori sono impuniti. Come spesso accade, La Verità ha un titolo diverso da tutti gli altri giornali, che è sempre un'inchiesta, che una notizia che La Verità ha deciso di approfondire. In questo caso la notizia è che il 75% delle somme da recuperare, Equitalia è appunto il braccio del Ministero delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, che il Ministero della Finanza non c'è più, ma insomma di quella parte del Ministero dell'Economia che si occupa di fisco e quindi dell'Agenzia delle Entrate, Equitalia è il braccio incaricato di recuperare le tasse non pagate, e così si scopre che il 75% delle somme da recuperare è nelle mani di appena 360.000 persone, l'1,8% del totale dei contribuenti, ma anziché concentrarsi su di loro si inseguono debiti da poche centinaia di euro. La fotonotizia però è dedicata a Virginia Raggi. Il sindaco Raggi prova a salvarsi giocando la carta veneta Colomban. Una dei tanti retroscena è appunto che in giunta potrebbe entrare esponente, in realtà non del Movimento 5 Stelle, è un po' un indipendente, però che è stato portato a Roma per volere, si dice anche qui, di Davide Casaleggio, il figlio di uno dei due fondatori del movimento, e da Grillo, l'altro fondatore del movimento. Il manifesto Quo Vadis, sullo sfondo una immagine del sindaco Virginia Raggi con la testa appoggiata su una mano. Virginia Raggi si arrende nel vertice romano con i consiglieri comunali, perde il sostegno della maggioranza e cede all'ultimatum di Grillo, via il vice sindaco Frongia e il capo della segreteria Romeo. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina in realtà due foto, una di Virginia Raggi e una di Beppe Sala. La Raggi cotta e mangiata, Sala indagato e santificato. Le due vicende naturalmente sono molto diverse, perché da una parte c'è l'uomo forte, tutti quello che veniva definito da tutti il braccio destro di Virginia Raggi, arrestato, dall'altra c'è Sala indagato non per corruzione ma per un'altra vicenda, ma per il fatto sono uguali queste due vicende, quindi titola Drammi a Roma, silenzi a Milano. Il Movimento 5 Stelle processa la sindaca, il PD difende il sindaco, inquisito per falso e ineleggibile. Vi segnalo un'intervista a Ignazio Marino, che di Virginia Raggi è stato il predecessore, poi sapete che c'è stato l'interregno del commissariamento. E ieri, segnalo, Ignazio Marino è andato anche da Lilli Gruber in televisione e mi ha molto colpita perché continuava a chiamare Beppe Grillo, che è uno dei due fondatori del Movimento 5 Stelle, il comico di Genova. È anche un comico di Genova, ma direi che la sua qualifica principale è il fondatore, cofondatore del Movimento 5 Stelle. Questa era appunto è stata una delle cose che ha ribadito quasi a, fino alla nausea Ignazio Marino ieri. E in questa intervista, che poi trovate a pagina 8, è ancora più duro, e su Virginia Raggi dice: è stata troppo legata alla destra, e di Renzi ha detto che Renzi è il napalm, sapete, quel gas, quella che veniva usato, è stato usato durante la guerra in Vietnam, che distruggeva tutto. L'intervista è di Gian Piero Calapà, molto dura verso tutti, ribadisce quello che in effetti ha detto anche ieri sera in televisione, cioè che per ora non sta pensando di rientrare in TV, rientrare in politica. Dice invece: sono rientrato nel mio ruolo di professore universitario negli Stati Uniti, coordino diversi progetti affascinanti, sono stimato e apprezzato. Non ci è dato sapere di più, a me comunque suona un po' strano, perché dopo tanti anni di assenza dal mondo della ricerca, dal mondo e sicuramente dalla sala operatoria, non so quali progetti gli si possono affidare, ma magari forse un giorno ce lo racconterà nel dettaglio. Il secolo XIX, Raggi resta, i fedelissimi no. Ma molto divertente la fotonotizia del secolo XIX, che è il quotidiano di Genova: cresce il mercato delle bottiglie sommerse, inaugurato a Portofino. Cosa sono queste bottiglie sommerse? È il vino invecchiato in fondo al mare. E sono passate in 6 anni queste bottiglie invecchiate in fondo al mare da 6.500 a 30.000 bottiglie. Chissà cosa ne direbbe il nostro gastronauta Davide Paolini. Passiamo velocemente alle pagine interne, perché poi l'ultima parte della rassegna vorrei dedicarla ai supplementi culturali della domenica. Dal Sole 24 Ore, vi dicevo, l'approfondimento su questo fondo di solidarietà per le aziende. Ieri c'è stato un sopralluogo del presidente di Confindustria Boccia nelle aree del centro Italia, e dice l'auspicio di Boccia è che queste aree saranno un laboratorio di attrazione di investimenti del paese. Un aggiornamento anche sulle grandi questioni dei commerci internazionali. Sapete che c'è ancora in discussione, quasi certamente però non verrà alla fine approvato, il TTIP, che è il trattato che dovrebbe regolare con nuove norme i rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Unione Europea. È stato approvato già invece il trattato tra il Canada e l'Unione Europea, ma Trump lo ha disconosciuto, e come per dire farò lo stesso col TTIP, però su questo vedremo. Era una delle trattative in corso che il presidente Obama avrebbe voluto concludere prima della fine del suo mandato, ma non ci è riuscito. E intanto un'altra notizia, ce la racconta Stefano Carrer da Tokyo: rinvio Unione Europea-Tokyo sul commercio per via dei soliti dissidi, soliti nel senso che in questi trattati ci sono sempre posizioni diverse, in questo caso soprattutto sulle categorie dei prodotti agroalimentari, sugli appalti e sui servizi. E poi, come sempre, da 10 settimane a questa parte, la pagina della domenica di Sport e Business, questa nuova iniziativa del Sole 24 Ore, appunto lanciata, questa è la 10ª settimana, quindi poco più di 2 mesi fa, e oggi è dedicata agli sport invernali. Trentino, palestra a cielo aperto da 2 miliardi di fatturato annuo. Per il 65% dei turisti la vacanza si lega a pratiche sportive, soprattutto invernali, però anche estive. Vi segnalo ancora anche dalle pagine interne del Corriere una bellissima, bellissima interessante intervista a uno dei consiglieri più ascoltati di Barack Obama, si chiama Josh Earnest, quindi non uno di una di quelle persone che lavorano un po' dietro le quinte, è stato un portavoce di Obama, però appunto non appare o comunque non è conosciuto ai più, adesso che dopo 2 anni di mandato e adesso che ci si avvicina a gennaio, quando ci sarà il vero e proprio insediamento ufficiale di Donald Trump, la voce di Obama, così lo definisce Massimo Gaggi, racconta questi 8 anni con lui e poi si azzarda a dare 2 consigli a Trump. Racconta anche che quali sono stati i momenti più difficili e poi insomma anche quelli che secondo lui sono ancora i problemi da risolvere, e tra le righe si legge qualche dubbio su come verranno affrontati da Trump, visti i primi segnali nelle scelte dei componenti della nuova amministrazione. Un'ultima segnalazione dal Corriere prima della pausa per il traffico: quello che sta succedendo in Polonia, in Parlamento si vedono cose che nemmeno noi in Italia vediamo, in quanto a scontri, insulti fuori e dentro il Parlamento, e quello Maria Serena Natale ci racconta appunto un assedio al Parlamento, e quindi qui c'è un caso Polonia. Il Premier, pensate, è uscito scortato di notte dall'aula, sono nel mirino dei contestatori anche i media, e c'è una protesta in strada che durano da 2 giorni. Questa era l'ultima segnalazione prima del traffico, una breve pausa e poi vediamo i supplementi culturali di oggi. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, ringrazio l'ascoltatore che mi ha giustamente corretto: Rossi non è il presidente della regione Emilia-Romagna, mi ero confusa, era rimasto nel mio cervello il riferimento a Vasco Errani, commissario per l'emergenza del terremoto, ex presidente dell'Emilia-Romagna. Rossi è il presidente della Toscana, e ringrazio anche gli ascoltatori che già a quest'ora di domenica stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. Prima di passare ai supplementi culturali, visto che diciamo sempre che non bisogna dimenticare il paese reale, e soprattutto non dovrebbe forse farlo la direzione del PD che si riunirà oggi, più che parlare di problemi interni, dovrebbe capire perché così tante persone hanno usato il referendum per dare un segnale di proteste, di disagio molto più largo. E allora, per esempio, la Repubblica torna sulla crisi di Almaviva, la grande azienda di call center. L'avvertenza è chiusa, ma con questo risultato: 2.500 licenziamenti a Natale, perché non c'è stato nessun accordo tra il gruppo dei call center e i sindacati CGL, CISL e UIL. Domani ci sarà uno sciopero, e quindi un estremo tentativo, però l'azienda intanto continua a perdere 2 milioni al mese. A proposito di aziende in crisi, che strano, c'è di nuovo l'Alitalia, anche qui per domani un appuntamento importante, un nuovo vertice tra Etihad, che ha acquisito il controllo, sapete, della nostra ex compagnia di bandiera, e i sindacati. In ballo ci sono tra i 600 e i 2.000 esuberi di personale. Manca l'intesa con le banche sul progetto di sviluppo, e ci sono contatti in queste ore per trovare un punto d'incontro prima appunto di domani. Ma passiamo ai supplementi culturali, cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Il Tempo, e la citazione è dal libro Padri e figli dello scrittore russo Ivan Turgenev. Il tempo talvolta vola come una freccia, tal'altra striscia come un verme. Quanto è stato pensato e scritto sul tempo, questo semplice pseudonimo della vita, come lo definiva Gramsci. Nella frase che abbiamo citato, tratto dal romanzo Padri e figli, che Ivan Turgenev pubblicò nel 1862, è definita in modo incisivo la qualità soggettiva del tempo, una qualità ancora più rilevante di quella oggettiva, scandita dagli orologi atomici di altissima precisione. Le ore gocciolano in maniera ben diversa rispetto allo scivolare dei granelli in una clessidra o al battito omogeneo della lancetta dei secondi e dei minuti. Ci sono infatti ore che volano come una freccia e altre il cui percorso sembra infinito, come lo strisciare lento di un verme nel terriccio. Il tempo è quindi la sostanza stessa della nostra vita. Le immagini sono forse barocche, ma aveva ragione Borges quando in Altre Inquisizioni, un libro del 1962, scriveva: «Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume. È una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre. È un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco». Il mistero del tempo, insomma, l'affascinante mistero del tempo. La copertina però è dedicata agli Stati Generali della Cultura che si terranno, è un'iniziativa che il Sole 24 Ore ha lanciato 5 anni fa, quindi siamo al quinto appuntamento. Si terranno martedì 20 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, e Pierluigi Sacco anticipa un po' dei temi e soprattutto torna su quello dell'Art Bonus. La nuova edizione degli Stati Generali della Cultura è l'occasione per valutare progressi e ritardi delle idee lanciate nel manifesto appunto del 2012. Il memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, è dedicata a Gabriele Pescatore, che è stato anche ricordato a Palazzo Spada a Roma lunedì scorso, e il direttore Napoletano era presente e torna su questa figura importante. Gabriele Pescatore è stato un giurista, ma un meridionalista nel senso più buono del termine, quindi anche presidente della prima Cassa del Mezzogiorno. Il titolo del memorandum: quella lezione del fare che vale per l'oggi e per il domani. E poi un articolo interessantissimo che trae spunto da tre pubblicazioni scientifiche. Lo scrive Arnaldo Benini e ci racconta un dibattito internazionale in corso nella comunità scientifica, ma che forse dovrebbe allargarsi alla società civile. Il pezzo si intitola «La verità, vi prego, sulla chemio», perché la chemioterapia è una cura efficace e indispensabile, ma rischia di far uscire i medici dai canoni corretti dell'etica professionale. I temi naturalmente sono quelli dei costi. A volte in alcuni paesi le persone non possono sottoporsi alla chemioterapia perché il Servizio Sanitario Nazionale non la passa e loro non hanno i soldi per farla. Il tema è anche quello degli effetti collaterali e anche chi deve decidere se solo il paziente o solo i medici a dire di sì o di no alla chemioterapia. Insomma, moltissimi temi davvero importanti che riguardano la bioetica e soprattutto il rapporto medico-paziente. Vi leggo soltanto questo: la pressione sui medici è tale che in Francia all'inizio del 2016 110 oncologi hanno protestato sulle Figaro che è intollerabile che terapie senza alcun effetto in malati terminali costino fino a 150.000 euro, perché questo è un altro tema, quello del cosiddetto, soprattutto da parte di chi lo critica, accanimento terapeutico. Alla 10ª settimana è arrivato anche l'iniziativa C'è qualcuno che sa leggere, le pagine del supplemento domenicale del Sole 24 Ore dedicati ai lettori più piccoli, e per questo numero, che è il numero più vicino al Natale, sono 6 le pagine invece che le solite 4, e il pezzo principale di copertina, questo Natale fateci volare, e racconta Beatrice Masini, è il momento migliore per regalare libri a più non posso, regalateli inutili, a qualcosa serviranno. Un altro ascoltatore: io questa storia del napalm, di cui semplicemente ho delle immagini soprattutto tratte dai film, ci casco sempre. L'ascoltatore è precisissimo, ci ricorda che il napalm non è un gas ma è un derivato del cherosene e acido palminico. Comunque è quella tremenda sostanza che veniva sganciata dagli aerei americani per fare più in fretta a uccidere i nemici che popolavano la giungla, i Viet Cong che popolavano la giungla del Vietnam. Faceva piazza pulita però di tutto, qualsiasi cosa colpisse. Passiamo velocemente alla lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, che come sempre affida la copertina a un artista, in questo caso un fotografo, Giuliano Lucas. Dall'interno vi segnalo questa bella carrellata di biografie di donne e uomini illustri, pensate per rivolgersi a giovani e giovanissimi. Uniscono spesso accuratezza e uno stile di racconto agile, e da qui sono, secondo l'autore dell'articolo, Pier Domenico Baccalario, adatti a tutte le età. Il genio nascosto dei difetti, vite da leggere, e c'è Van Gogh, c'è Gandhi, c'è Che Guevara, e anche libri dove ci sono più biografie raccolte insieme. molto bello, forse insomma chi magari mi ha seguito un po' sa della mia passione per Bach, ma anche per Mozart, e l'approfondimento di Gianmario Benzig su questa tendenza musicale si intitola Bach e Up, Steve Jobs canta all'opera. Che cosa succede? Che a Santa Fe nel luglio del 2017 debutterà questo lavoro di un musicista emergente, Mason Bates, che è apprezzato anche da Riccardo Muti, e è un'opera sul fondatore della Apple. Alimenta un filone di composizioni ispirate all'attualità o alla storia recente, che poi riguarda anche l'Italia. La copertina di Robinson, il supplemento culturale della Repubblica, che è arrivato al numero 4, la copertina è dedicata alla fisica, il Big Bang della fisica, con un approfondimento in particolare sulle ultime teorie del fisico e anche grande divulgatore Roger Penrose. Un'altra segnalazione da Robinson di Repubblica, un articolo di Hanif Qureishi, lo scrittore inglese, britannico, si intitola Fanatismo. Negli anni 90 molti giovani musulmani inglesi si sono allontanati dal liberalismo e dalla cultura occidentale per abbracciare l'ideologia religiosa. Sarebbe bello che il loro radicalismo ora diventasse idealistico e laico, e speriamo che davvero succeda. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Io ringrazio Peter Bescapè in regia e ricordo a tutti, se volete mandare dei messaggi, 349-238-6666, ho il mio account Twitter Giulia_Crivelli, ma soprattutto ricordo a tutti che domani alle 6:30 puntuale torna 24 Mattino e torna soprattutto Alessandro Milan. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, con l'augurio di avere un pochino più di tempo per sfogliare i giornali di oggi, che sono ricchissimi di cronaca e, come dicevo, hanno anche i supplementi culturali. Buona domenica a tutti.